4 luglio. Stamattina, uscendo di casa, ho ritrovato il solito incontro confortante. Sui muri vicino a casa nostra, una mano sconosciuta ma niente affatto popolana dipinge con una bella vernice turchina e in perfetto stampatello le stesse parole: Viva il Duce, viva Hitler, viva Lasse. E metodicamente, il giorno dopo, una mano frettolosa e violenta raschia via la vernice e l'intonaco per cancellare il viva di Hitler e distruggere l'ultima zampetta della R, che diviene così una P. Forse Hitlep è un insulto nella mente di questo sconosciuto mio amico, ma certo che fa un gran piacere vederlo ripetutamente e inesorabilmente mutilato quel nome odioso, malgrado la sorveglianza degli innumerevoli poliziotti. Conforta, e allora io vado all'ufficio col cuore più leggero.